cercano solo di ficcartela tra gli occhi tuoi. Ti accorgerai di quanto anche tu sei condizionato in tutto quello che fai. C'è chi guadagna su di te e abbatti i muri che crescono e abbatti i muri che tu non vuoi. Abbatti i muri, c'è tutto un mondo di lui là. Tu non sai che cosa sia la libertà, sei lo schiavo neppure lo sai. Quello che noi dobbiamo fare è piegare la schiena e produrre di più senza perdere tempo. E se avrai dei figli non dovranno essere d'ostacolo. Rendi indipendenti presto, è il tuo compito. Devi comprare una casa, se ce l'hai già la devi avere più grande. E per far questo devi chiedere un mutuo, o mai nessuna ti vorrà. Ascoltare un po', soltanto un po' di più il tuo cuore. Prova ad ascoltarlo un po' di più. Prova ad ascoltare un po', soltanto un po' di più il tuo cuore. Prova ad ascoltarlo. Ci crediamo tanto evoluti ed istruiti e pensiamo di aver sconfitto per sempre certi subdoli regimi. Io vi dico che noi siamo ancora degli schiavi. Dalle ufficiali autorità.